Sina ama poi la ta vendo la sanza bori fendigale te da bonzo e so vole la laica e ne da tani non lo stessi mi va bene muronica canistona ma da bolda vendo d'oriente.